Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e anche buon anno a tutti. Buon anno principalmente al mio partner. Buon anno Antonio. Buon anno Gesi e buon anno a tutti i nostri ascoltatori. E buon anno anche, certo, e anche al nostro ospite che è il signor Mauro Zanatto. Ciao Mauro. Buonasera. Auguri e buon anno. Buon anno. Chissà che sia un anno proficuo, esatto. Bello. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Bene, allora cominciamo subito con una canzone veneta. Beve, compare, sì. Di Orietta Berti, che è naturalmente il tema della serata. Beve, compare, se no te masserò. Il bosco te masse, che mi tutte beverò. E in tanche il beverà, noi tante la bomba balla. Alzano il vomito e vuotano il bicchiere. L'acqua fa male, il vino fa cantare. Bevevano i nostri padri, sì. Bevevano le nostre madri, sì. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Del bianco moscatello e del nero margevin. Se ne avessi un botticello ne vorrei vedere. Bevevano i nostri padri, sì. Bevevano le nostre madri, sì. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Del bianco moscatello e del nero margevin. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. Eccoci di nuovo in studio e col nostro ospite al quale adesso diamo la parola. Sì. Allora Mauro, che cosa ci racconti di bello stasera? Parlo intanto dell'orologio cronometro, che è il mio primo libro, ed ho tratto da questo racconto, da questo romanzo, un racconto, perché è fatto di più racconti, se ben amalgamati, sì. Che parla, è abbastanza popolare, parla di Strassi, Ozzi e Ferovecchio. È il periodo quando ero piccolo e vedevo passare questi personaggi lungo la via Ugo Bassi qui a Santa Maria della Rovere, ed erano particolari, avevano delle caratteristiche molto accentuate. Questo signore, che noi lo paragonavamo a Mangiafuoco, perché aveva una bocca sdentata, la priva come un forno. Quindi la nostra fantasia di bambini ci ha lavorato parecchio. Adesso chiedo il nostro qui luce della voce se può allora, leggere. Allora, Strassaro. Bisogna sapere che a metà settimana, lungo la via Ugo Bassi, passa a cavallo di una bicicletta nera trainante un carretto un omaccione brutto e spelacchiato, da noi soprannominato Mangiafuoco. Ha sopracciglia grosse e scure come cespugli sopra due piccole collinette, il volto paonazzo è rigato da mille vene blu che convergono su un naso grosso simile a una patata americana. Quello che in lui più impressiona è la sua voce, che irrompendo possente, fendendo il silenzio mattutino, fuoriesce da una caverna adorna di stalattiti e stalagmiti di un colore quasi indescrivibile tra il marrone, il viola e il nero. Si può notare soffermarsi nei pressi l'entrata delle ville, divaricare le gambe e intonare, quasi fosse Mario del Monaco nell'Otello, il solito monotono ritornello. «El Strassaro! Strasse, ossi, carta, ferro vecchio da vender, El Strassaro!» Se di rado incontra qualche cliente, di solito sono vecchiette che arrotondano la magra pensione, gesticola e risica sul prezzo, carpendo a fine trattativa un'ombra del rosso. Per questo ed altri episodi su cui non sto qui a dilungarmi, noi lo diamo con tutto il cuore. Un giorno d'aprile stavamo costruendo, muniti di pala e secchiello, un castello di sabbia, quando lontano, all'inizio della via, l'energumeno ha iniziato ad avanzare sbraitando la sua cantilena a squarciagola. «Ancora? Possibile che ogni tanto non cambi strada?» ci siamo detti. Nell'avvicinarsi, passando da un lato all'altro della strada, si accorse della nostra presenza e cominciò a guardarci di sott'occhio furbescamente, con un ghigno beffardo stampato nel volto. Dopo non molto, mulinando gli ossi degni della sua merce, arrivò al cancello della villa e, sceso dalla bicicletta, iniziò, senza alcun motivo, a canzonarci, aprendo le fauci puzzolenti adorne di pappole bianche. «Cosa fai qua, bei vitellini? Chi vi ha dato il permesso?» «Nessuno». «E allora ande via, che devo fermarmi col carretto per caricare a carta». Ci indicò dietro le nostre spalle, dove c'erano dei pacchi di giornali e due o tre teglie d'alluminio unte e annerite dal fumo. Irritato dall'assurdo comportamento, risposi secco e deciso: «Non se ne parla». «Come? Come? Cosa te ha detto, vitellino?» «Non se ne parla», ho ripetuto alzando la voce. Digrignò i denti incollerito, strabuzzando e roteando gli occhi da civetta. Subito dopo assestò un colpo di pedale, dividendo in due parti il castello con la ruota anteriore. Poi scese dalla bicicletta e si chinò lentamente a raccogliere la carta. In quell'istante abbiamo sentito dentro di noi qualcosa accendersi e divampare così forte, difficile da trattenere, talmente bruciava. «Questo per insegnarvi l'educazione, imbecilli!» Fece il segno d'aggredirci, mulinando le braccia, e continuò: «La prossima volta che ve vedo qua, ve magno vivi!» Non risposi e lui ci lasciò bestemmiando in una nuvola di cipolle e vino mal digerito. Abbordò l'ultima curva che immette in via Acquette da Kamikaze, sparendo nel verde dei tigli. Mio fratello e io aspettammo fino a tardi, bighellonando nei pressi in attesa del suo ritorno. Prendemmo poi dell'altra sabbia da Luigino e ricostruimmo il castello più bello di prima, aggiungendovi delle mura tutt'attorno e una galleria che l'attraversava da una parte all'altra. Verso sera, quando l'aria diventò più fresca e la via si colorò di rosa, udimmo in lontananza la sua voce avvicinarsi e giungere a noi sempre più forte. «Stra, stra, strassaro!» Riusciva a pronunciare tartagliando solo quella parola. Le restanti uscivano dalla bocca soffocate in un lungo lamento da foia cinofila. Rifece la curva sfiorando il fosso con la ruota posteriore del carretto e inoltrò il lungo rettilineo zigzagando gonfio di vino e cianfrusaglie. Vedendolo, riempì il secchiello di sabbia e mi nascosi nei cespugli in lieve rialzo che delimitano la villa, in trepida attesa. Ma, per mia sfortuna, troppo lento e stanco era l'incedere, strascicata e insopportabile la voce. Dovette fermarsi un attimo a rifiatare, poi riprese a pedalare in un equilibrio ancora più instabile, ululando. Le ginocchia cominciavano a dolermi quando mio fratello, di vedetta sopra la grotta, mi avvisò: «Sta attento che è lì vicino!» «Tu sta giù, non farti vedere!» risposi con un filo di voce. «Ora lo sistemo per le feste!» Scostai le foglie stringendo il secchiello al petto, poi guardai alla mia sinistra e a destra, da dove lui stava arrivando. Aspettai la fine del ritornello, precipitandomi subito dopo sulla via, lanciando la sabbia nella fornace spalancata, strozzandone l'acuto. Sentimmo solo uno «stra», seguito da starnuti, sputi e vomitate bluastre. Compiuta l'opera, attraversai la strada defilando in via De Fantis, correndo verso le case bambola, godendomi da lontano al sicuro quella scena che fu delle più belle e allo stesso tempo raccapricciante che avessi mai visto. L'energumeno si contorceva appoggiato, sbalestrato al telaio della bicicletta ed emetteva grosse sbuffate quasi simili a una locomotiva a pieno vapore. Imprecavo tentava di farlo, gesticolando: rivolgendosi verso il castello di sabbia ed alzava le mani al cielo, ricercandomi, roteando il corpo di qua e di là. Mossa a pietà, accorse trafelata la mamma di Luigino portandogli un bicchiere d'acqua. Beve d'un fiato e ricominciò a bestemmiare, questa volta più comprensibile, smoccolando gran parte delle cose che non si dovrebbero dire, soffermandosi con particolare attenzione su un personaggio che è tra i più devoti e dei più compresi dalla devozione. Riprese ancora fiato, poi, scosso dalla collera, sbuffò. Di chi seo quel fiol de sperai nell'omertà della signora e non ne fui deluso. Non lo so, non l'ho mai visto da queste parti, rispose candidamente. Come sarei a dir che non l'ho visto? Ma se gli era qua un minuto fa che giocava con un altro puteo pipico e biondo panoccia. Sarà stato un monello delle case bambola, ma di sicuro non di questa via, continuò la signora mentendo. Se o rivedo, giuro che o metto su appresso e o schinso come una mosca, sto vigliaco. Ci volle parecchio tempo e diversi bicchieri di vino per convincerlo, ma poi riprese la sua corsa dileguandosi nell'imbrunire della sera. Da allora lo vidi altre volte passare lungo la via e stranamente, transitando vicino al cancello della villa, la bicicletta si impennava e l'energumeno procedeva in una volata solitaria. Sembrava Van Stenberg nel mondiale vinto nel 1951. Di già tutto qui? Finita la storia? Sì, cosa volevi che ti raccontassi? I Promessi Sposi? La Divina Commedia? Adesso si accuccia nel letto e sorride soddisfatto. Quando Silvano racconta, assomiglia ancora di più a mio padre. Ha le stesse pause e tonalità di una fantasia non comune, una pioggia di colori che li accomuna. Dimmi, chiedo avvicinandomi, cosa c'entra con la storia quel Van Stenbergen? Devi sapere che quel signore è un ciclista tuttora in attività, proprio come i nostri Coppi, Bartali e Magni. Questo velocista, nell'agosto del 51, vinse il mondiale su strada con una magnifica volata. E allora? È un modo di dire. Mangiafuoco, come noi le chiamavamo, accelerava la pedalata per il timore di incontrarci. Simulava appunto una volata. Ho capito. La porta s'apre, fa capolino la mamma. Se volete venire a mangiare è pronto. E ritorna in cucina, ciabattando. Che bel carino, molto molto carino. È solo situazioni che abbiamo vissuto. Diciamo, i ragazzi del dopoguerra. Si ritorna ai vecchi tempi. Sì. Leggiamo un altro? Direi che qualche considerazione di Mauro e dopo passiamo al prossimo brano sì, musicale. Sì, difatti vecchi tempi, i tempi degli anni 50, 57 in questo caso. Anni eroici. E quindi vedevamo tutto, oltre allo Strassaro veniva quello che vendeva i gelati su dei carrelli variopinti. Sì. L'uomo del geato. L'uomo del geato. Geati. E eravamo tutti là, tutti i putei in riga che aspettava. E c'erano solo tre gusti, panna, cioccolato, e limone, qualche volta pistacchio, e aveva come un tipo di calamaio, c'erano delle penne nere, sembravano, ed erano pezzi di liquirizia. Ecco, era bellissimo. Gusti che si ricordano ancora, che si ricordano delle Madeleine appena, praticamente di epoca altro più remota. Che adesso vai dentro una gelateria, hai 350 gusti, non sai cosa scegliere. Quello c'era. Quel gusto della novità. Quello c'era, quello era buonissimo. Era. Il poco era buono. Sì. E ora abbiamo tanto e siamo un po' indifferenti. Costava 10 lire. Sì, bastava. E ti davano un bel cono. Certamente. Erano altri tempi. Tempi che sembrano così, chiaramente tempi anche magri, tempi tribolati, eccetera, però rimane curiosamente nella mente quel po' di bel tempo, quel po' di momenti positivi che c'erano. Quello si rimane e si sedimenta. Quello però rimane comunque la poesia di quel momento. Esattamente. Perché quello era fonte di poesia. Veramente. Nasceva dalla povertà, dagli occhi che possono vedere, che non occorreva fare delle fotografie. Assolutamente. Che si imprimeva nella mente questi bellissimi paesaggi. Erano bei tempi. Benissimo. Certo. Allora ci fermiamo per il prossimo brano musicale che è Se telefonando. della notte spalancata sul mare. Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale diamo la parola. Sì, abbiamo letto, cioè ha letto prima la voce di Antonio, adesso ripercorrendo sempre quella magia di quegli anni, volevo dedicare una poesia che si chiama Purezza, in cui da spazio proprio a quest'occhio bambino che vede le cose. Purezza. Pinocchio, seduto su falce di luna, pescava le stelle. Nell'amo aveva rubini di sole, rubò un sogno a caso, lo deterse dal resto notturno. Brillava di infinita luce, l'accostò al petto, ed ebbe per anima un sorriso di bimbo. Bello, bella immagine. Del legno, bella, ecco, immagine, questo. Sì, bella immagine. Il fanciullino molto pascoliano. Bello. Molto bello. Qui c'è proprio qualcosa di pascoli. Sì. Sì, beh, sempre con rispetto parlando. Sì, beh, vabbè. Il richiamo. Ascolta, il richiamo. Posso farti qualche domanda, Mauro? Sì. Quando hai cominciato a scrivere? Da piccolo, da piccolo ho scritto molte cose, poi le ho anche, non so dove siano andate, però. Ma non ti è rimasto qualcosina, non so. Sì, ho delle piccole cose, ad esempio dell'età di 15-17 anni, delle poesie, ma molto molto tristi, perché era un periodo, l'adolescenza, la morte del fratello e del padre, era un periodo un po' esistenziale, quindi il mio animo scriveva soltanto queste cose. C'era comunque nel sottofondo una speranza di cambiamento, però il momento era abbastanza buio. Quindi io quelle le ho messe da parte perché non posso dire hanno una certa negatività, perché non è negatività. Hanno una trasformazione che poi mi ha fatto del bene, si è tramutata col tempo in qualcosa di più positivo. Insomma. Quindi non ne hai qualcuna di queste di quell'età? No. Ma perché sarebbe molto interessante anche seguire un po' l'iter da quando hai cominciato, perché poi ci si matura sempre di più, logicamente. Certo, di quell'età non ne ho assolutamente, e neanche non ricordo, a parte che io non ricordo nessuna delle poesie che ho scritto, a parte Giovinezza, che è brevissima, che è frettolosa pagina di un libro troppo breve. E quindi è talmente breve che anche un Gretti si ricorda la sua mattinata sì. Con Mi illumino di menso, sì, ma altre poesie forse non si ricordano. Però molto bella, e ripetemela che non l'ho capita bene. Giovinezza, sì. Frettolosa pagina di un libro troppo breve. Guarda che dice tutto, racchiude tutto. Esaustivo, sì. Esauriente. Eppure sì. Noi quando siamo giovani non ci rendiamo conto che stiamo vivendo uno dei periodi più belli della nostra vita. La condizione sì, umana. E poi noi da giovani abbiamo come appartenenza all'eternità, sembra che la morte non debba mai avvenire. Vedi i Jones Dean, e James Dean e tanti altri, sì, altri quel correre veloce ad occhi spenti, esatto. A fari spenti nella notte alla Battisti, sì, alla Battisti, e tutte quelle cose lì. Beh, non è la tendenza proprio del periodo del giovane, poi della sfida e compagnia. Quando passi 40 anni e anche più, vedi che tutto cambia, c'è più precarietà, però e hai più il gusto del vivere l'oggi, il presente. Il presente, sì, perché il tempo più... ti sfugge appunto. Comunque c'è una poesia del Cardarelli che proprio parla, si chiama Parabola, che parla che noi si vivono questi anni senza finché arrivi alla cima, però dopo per arrivare alla cima ci metti un po', ti sembra che non passino mai, però poi rotolano e poi dopo, vanno giù per la discesa, è la discesa alla Magni, o la Russi. È molto bella, una poesia molto molto molto significativa, adesso qui non ce l'ho, ma la porterò. Cos'è il Dolce Stil Novo? No, è la poesia di Cardarelli, che si chiama Parabola. Sì, Cardarelli. Vincenzo Cardarelli. Vincenzo Cardarelli, sì, è un poeta... dei nostri insomma. Sì, dell'8-900. Sì, ha scritto delle belle poesie. A me piace, insomma, come è un poeta triestino. Difatti io penso che l'ospedale Cardarelli di Trieste, però sì che l'abbiano altro nome, sì, per, come del resto anche triestino è Umberto Saba. Umberto Saba, sì. Che ha scritto quella poesia lunga, La moglie. Che paragona la moglie a quella, sarebbe anche simpatica da leggere. Tu la conosci, Antonio? Non ricordo. Cioè, e la proponi la prossima sì, volta? Sì, la proponiamo la prossima, la prossima perché volta la riproponi. Sì, è una poesia molto significativa, okay. Molto... Vabbè. Allora. Possiamo procedere con il nostro ospite che continua questo racconto. Il racconto per quanto racconto riguarda in poesia o in prosa. Che cosa ci leggi adesso? Vorrei, se il Dolce Antonio mi fa la cortesia, perché è un po' complessa questa poesia, parla delle torri di Babele ed ho immaginato quel periodo che ho vissuto anche parecchio interiormente del bombardamento a New York delle Torri Gemelle. Ah, sì. Io le chiamo Torri Babele perché le ho accomunate a quel periodo in cui nasceva la storia, insomma. Torri di Babele, il nostro Eldorado, un ammasso di detriti. Torri di Babele, un fumo nero ed evanescente. Pietà racchiusa in un riccio di morte. Agonia e lamento senza tempo. Increduli occhi, ironia che appiattisce l'animo, spaventa, smarrisce. Nel nome di Allah, campo di sterminio. mondo adorno di dei pagani, telefonini accesi, squilli smorzati nello spazio dell'attimo sinistro, nel silenzio eloquente che avanza e sospira, monito del tempo che muta per sempre. Due girasoli uguali volgono corolla nella luce, grida nel nome di un Dio piangente. Il libero arbitrio ha acceso la fiaccola. Benvenuti a New York, popolo di mortali. Falsa opulenza adorna di paura cade invincibile. L'impotenza viaggia nella metropolitana verso casa. Oggi 11 settembre, prima notte d'incubi. Il talebano addita l'impero d'Occidente. Porterà una rosa rossa in ogni stanza. Non lasciatela appassire troppo in fretta. Vive. In nome di Dio si rinasce ora. Davanti una realtà che appare cruda, senza sentenze. Tutti perdenti. Kamikaze di se stessi. Bella. Densa ed intensa. Beh sì, bisognerebbe rileggerla almeno un'altra due volte per capirla bene, per entrare nella poesia. Per entrare nella poesia, no, sì, per capirla, per entrare, c'è sì, un'angoscia tremenda. Sì, appunto. Perché questa angoscia la senti anche nell'avanzare della strofa, in cui sono strofe di 7 lettere l'una, e quindi è quasi una cadenza che dà il senso proprio d'angoscia. Vabbè, sì. dell'impotenza dei singoli, perché in quel momento questa città invincibile è colpita a pieno, è colpito anche il Pentagono. È colpita l'America, quindi pensate, nessuno è invincibile. Appunto. Diciamo che anche una squadra di serie C può battere la Juventus. Quindi vengono meno tutte le certezze che c'erano fino a quel momento. Ci fermiamo per un'altra canzone, sempre cantata da Orietta Berti. Solo tu. Sì. Ogni giorno di più, sei qualcosa per me, sei qualcosa di me, mai, mai, mai, senza te io vivrei. Ora che sei così importante per me, e a nessuno darei quello che ho dato a te, io ti giuro che non potrei. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ospite Mauro Zanatto. Sì, c'è una poesia che vorrei far leggere al nostro bel Antonio, ed è intitolata Vecchio e Giovane. Cioè, vuol dire che siamo si può essere vecchi e si può essere giovani comunque sempre, anche se si ha una certa età si può godere la vita e si può assaporare qualunque cosa. Di questo sono convintissimo. Si può avere dei capelli bianchi, un volto da bambino, un animo da bambino. Ma un cuore da bambino. È un cuore, l'animo sì, da bambino. Che è molto... Si può avere l'età della vita, ma la vita averla dentro di te. Ed è la vita che è il discorso anagrafico più importante. È l'animo. E poi se non riesci a fare più i 100 metri quadri, i 100 metri... E diciamo i 200 metri non ha importanza. No. Non sei Bolt, però viaggi con l'anima molto più veloce. Maratoneta. Sei un maratoneta, sei un diesel, diciamo. L'importante è volta. Questa poesia voleva dire questo, insomma, sì, giovane, sì. Vecchio. Non c'è alcuna distinzione, sei comunque tutto. Vecchio e giovane, sono sorgente e mare, il mio fine è adesso e sempre. Transito. Ho l'età di un granello di sabbia, di una frondosa quercia. Il mio vivere è ora e ovunque. Ho il volto di un bimbo, i bianchi capelli di un vecchio, l'età della vita e la vita in me torna. Sono il più giovane dei vecchi e il più vecchio dei giovani. Avanzo. Bella sto, sono il più giovane dei vecchi, il più vecchio dei giovani. C'è un'interazione, un intreccio di età, un intreccio di sentimenti, di sensazioni. Una, come possiamo chiamarla, una staffetta generazionale continuamente. Dai, proprio, che si figuratamente proprio, mi dà proprio questa idea. Ecco. Cioè arriva il giovane, ecco, che vecchio, aspetta, dammi il bastone. E poi lo dà un altro giovane, un altro vecchio, un altro breve. È l'età, questa è la corsa dell'anima, è tutto l'interno di una persona, diciamo. Esattamente. Anche. Comunque tante volte io mi chiedo, alla mia età, come mai che faccio sogno, o mi sento il cuore in festa come fosse... E allora dico, come mai? Vuol dire che il mio intimo è ancora molto giovane. Eh sì, tu aspetti ancora nella favola il bacio del ranocchio e via dicendo. Molto bello comunque. No, comunque esiste una bella addormentata. Comunque che mi piacciono le favole, sì. È bellissimo. Mi piacciono tantissimo. L'altro giorno in televisione hanno fatto la bella addormentata, ma io veramente... sono stata bene, ecco, mi sono sentita bene alla fine della favola, proprio ero... Perché le favole sono l'inizio di qualsiasi cultura. Sì, sì, però... Nascondono in forma mimetica, diceva un certo Gerard, filosofo francese, ciò che realmente è l'animo la nascita dell'animo umano e la progressione anche che ha fatto negli anni, l'evoluzione. Nella propria anima. Bisogna, quando si ascolta le favole, non pensare che sono favole, no, proprio viverle così, viverle. E allora le gusti ti portano in un mondo che non è questo qui, insomma, che è un mondo fantastico, un mondo che vorresti che fosse così, insomma. Sì, parte delle favole fa parte, anche se... è un romanzo favoleggiato, sono i segreti del fiume Storga, risorgiva a sinistra. E questo è scritto proprio parla di anguane, del diavolo Mazzariol, dei gatti che parlano con un bambino down, un giovane down che ha 18 anni e poi ne avrà 25, e con Merlo Canterino, con tutte queste cose che... diciamo che si avvicinano un po' a Pinocchio, le storie di Pinocchio. Ecco, a me piace quando nelle favole fanno parlare gli animali, mi piace tantissimo. È bellissimo. Ma che poi in realtà è vero, perché se tu hai avuto degli avvicinamenti con i gatti, gatti, ad esempio, io ho avuto la gatta che si chiamava Alfonza. Io do sempre nomi strani ai gatti. Alfonza, e alla mattina si metteva su una sedia mentre facevo colazione ed io parlavo con lei. E lei continuamente... Sì, sì, ma ti capiscono. No, no, no, capiscono. Il tono della voce, sì, ma anche capiscono il tuo linguaggio a forza di sentirti parlare. Certo. Certo non possono risponderti perché non... Ma secondo me, beh, io ho avuto il cane per 21 anni. Non uno solo, due, tre, ma ne avevo una che veramente era la mia ombra, era un... capiva tutto, se stavo, se ero contenta, se ero triste, se ero... Ma è una cosa che ti commuove, vedere come un animale ti capisce, come ti sta vicino, come ti... E poi ho un'immagine che quando l'ultimo dei miei cani stava male, è andato a nascondersi tra la vasca e il muro. Proprio hai visto la dignità di questa bestia che stava per morire. E... Grande parola, la dignità. La dignità. Sì. Vabbè, allora... Andiamo avanti ancora un pochino? Avanti, sì, sì, sì. Sì, parliamo proprio di questo. Qualcosa che si collega a questa poesia che ed è intitolata Sei. Queste sono poesie scritte da tempo o le hai scritte adesso? Le ho scritte nel 2006, queste poesie fanno parte della raccolta Controluce. Le hai pubblicate queste, sì? Sì, sì, le ho pubblicate per mezzo della casa editrice che è diretta da Ruffilli, Paolo Ruffilli. Sì, del Leone. Del Leone. Sì. Ecco, vorrei recitare ad esempio L'arpa del divenire, sì, che è sempre collegata a vecchio e giovane e ha sempre una certa trascendenza. Questa è molto semplice, non parla solo di una visione, di un'esperienza che hai in solitudine vicino a una risorgiva. Arpa del divenire. È il sole si è fermato in questa acqua pesante di luce, dove i canneti sparsi raccolgono il vento. È il suono di un'arpa eolia disperso fra i giunchi, che indugia un attimo nelle ombre tremule della sera. Ho la vaga sensazione che il tempo sia qui con me, fra il fontanile, la terra e la mangrovia. Solo ritmo volare di una farfalla ti riaccende, si posa sui petali di una rosa selvatica che racchiude gelosa il divenire. Poi l'astro scivola dentro i sambuchi nell'altra riva e lento si spegne. Rimane soltanto un silente respiro ad annunciare la sera. Che bella questa ultima immagine. Un'esperienza tranquilla. Un respiro che annuncia la sera, bello. È un respirare del tempo. Sì, io ho una certa... A me piace la sera, cioè proprio la prima sera mi piace. La trovo molto suggestiva, molto romantica. C'è una poesia, non mi ricordo di chi, che parla della sera... Ecco, qualche altra composizione del nostro autore? Stando sempre nello stesso tema, felicità omeopatica, cioè una felicità a gocce fatta non di tanto... Di erbe. Non di tanto scalpore, cioè il vivere quotidiano, cioè andare a casa, sei un pendolare, ritornare a casa... E ritrovare il calore della famiglia, è soltanto questo senso qui, non c'è nessuna, non è cervellotica come tante altre poesie che ho scritto, che forse sono un po' troppo pesanti. Felicità omeopatica, voglio una felicità omeopatica, a gocce, non la vampare del cielo, ma il tremulo chiarore, non grida incitamenti, ma una parola leggera che nasce stentando, tartagliando, vestendosi del dubbio. Non voglio clamori, ma sospiri d'attesa o il persistente ronfare di un gatto che ti accompagna all'uscio prima di cena. Quindi hai il tuo maggiordomo particolare. Eh sì. Il tuo maggiordomo è il tuo gatto nero o rosso, quello che avevo prima, che mi accompagnava verso casa e mi aspettava quando ritornavo da questa rottura di scatole che era il lavoro, e ben venga che in quel momento oggi, lavoravo, oggi perché sì, adesso appunto, nessun, siamo dei privilegiati, mi aspettava e mi accompagnava all'uscio. Naturalmente i gatti ti accompagnano sempre per qualcosa. Sì, beh, il gatto è... perché no, io pensavo perché voleva il suo bocconcino, invece il cane ti accompagna per affetto. Qualche altra composizione così che ci dia l'idea di queste, di questa simbiosi, di questa... Beh, diciamo un'altra composizione che naturalmente sono tutte cose che hanno un interesse particolare, tra così un qualcosa di sospeso tra le emozioni che si possono sentire tra umani, invece tra umani ed animali. Esatto. Sono cose che hanno, è una complementarietà, vorrei dire, di queste cose. Certamente. Beh, in questo caso non è umana, ma si avvicina alla poesia di prima del Giunco, del Fontanile, ed è sei. Come goccia di pioggia caduta nel mare, che tutto accomuna, danzando nell'onda, sei e non sei. Sei luce fioca, perduta nell'abbaglio, attimo nell'eterno. Sei sottile profumo in un campo di narcisi. Sei granello lucente in lidi di sabbia, in ventosi deserti sospinto. Sei uomo e donna, figlio e madre, gioia o dolore. Sei tutto, sei niente. Questa è un po', si avvicina al vecchio e giovane. Sì, in sostanza sei... Sono quelle domande esistenziali, esistenziali, quelle dichiarazioni, proprio, diciamo, di come dire, precarietà, ma anche di come dire, legami familiari, legami tra umani, eccetera. Certo. E tra questi è la natura. Sei tutto e sei niente. Esattamente. Sei tutto, perché sei tutto, sei una particella di Dio, certo, anche te, ma... però sei nella tua carne, sei anche niente, basta un attimo. Quanti? Un ictus, via, ciao. Lo so, questo un attimo, che... noi pensiamo di avere una corazza molto forte. No, ma... Bisogna rinforzare l'anima, oltre alla corazza esterna che abbiamo. Assolutamente. Bisogna pensarci a che poi, cose. Se posso intervenire, la corazza naturalmente ti protegge da una parte, ma ti impedisce dall'altra parte di uscire da te stesso, quindi ti protegge da una parte ma ti imprigiona dall'altra parte. Ah sì, certamente. Ecco. Niente, allora possiamo passare all'altra canzone, che una prossima canzone. Stasera ti dico di no. Benissimo. Stare con te, tu non sai quanto piace a me. Il sole batte sopra il tetto ed io mi giro nel mio letto. Ma quando è notte, dov'è che vai? E solo tu sai quel che fai. Tu quando hai tempo vieni da me e lasci sola lei. Devi dirmi se vuoi bene a fiume, l'acqua che va, vedo una rosa di chi sarà, il grillo ha perso la sua voce, da tempo è spenta la mia luce, ma quando è notte dov'è che vai, a chi regali gli occhi tuoi, tu quando hai tempo vieni da me e lasci sola lei. Amore, no, stasera ti dico di no, io non ci sto, se tu non mi dici chi è. Amore, no, stasera ti dico di no, io non ci sto, se ed eccoci di nuovo in studio e con l'ultima tranche di questo incontro tra poesia e prosa con il nostro amico Mauro, che ecco, ci dirà di che cosa si tratta, come l'ultima parte del cammino. L'ultima parte, l'ultimo capitolo, l'ultima parte, sono tre pagine. I segreti del fiume Storga, terza risorgiva a sinistra, che è intitolata Trasformazione. Praticamente questo, la trasformazione di questo ragazzo, che era il Down, si trasforma, fra virgolette muore, anche se è implicito qui, non è particolarmente sottinteso, e si trasforma, la sua anima parte via con l'anguana e ritorna in un'altra dimensione. La trasformazione del merlo in anguana e la trasformazione del gatto stesso, tutti si trasformano praticamente, dalla parte terrena diventano anime e se ne vanno tranquillamente in altre dimensioni, non so quale, però c'è trasformazione. Un bagliore improvviso dietro il lauro accese la notte. Il merlo saltellò avanzando di un paio di metri dalla riva. Sembrava fosse uscito dall'acqua della risorgiva. Razzolò la terra alla ricerca di qualche verme e, guardando attorno, iniziò a fischiettare innervosito. «Svelto, Casimiro! Abbiamo solo 5 minuti!» Il gatto fulvo saltò dalla macchia con un balzo da fare invidia a un ghepardo. «Sono qui!» miagolò. Il merlo dondolò il capo in segno di disapprovazione. «Lo vedi? Lo vedi? Sei un oco!» disse allargando la gialla iride. «Perché mai?» chiese il gatto. «La coda!» aggiunse indispettito l'uccello. Il gatto volse il capo, vide la sua estremità inzuppata come un savoiardo intinto nel latte. «Veramente strano! Talmente strano! Praticamente strano! Assolutamente strano! Voi felini siete troppo terreni, non riuscite a vedere oltre i vostri baffi. Penso che resterai ancora per molto ad aiutarmi.» «È quello che voglio», rispose Casimiro. «Appunto, svogliato di un gatto, questo ribadisce ciò che ho appena detto. Questa maschera non le conferisce affatto, le dà un tono così bisbetico, gentile, fa...» «No, no!» gridò il merlo interrompendo il gatto. «Cosa ho detto?» sussurrò contrito il micio. L'uccello fece 2 salti a ritroso. «Questa maschera mi è servita per 7 anni. Vorrei rimanesse tale almeno per 5 minuti. Ci siamo capiti?» Casimiro si grattò l'orecchio destro confuso. «Come vuole, cioè come vuoi, merlo, pardon, maestro merlo canterino. Così va bene, fammi strada.» Il merlo continuò ad avanzare saltellando nella macchia. Il plenilunio filtrava fra i rami a carpire il suono sommesso del bosco. Un vento indispettito guizzava frizzante a raccogliere le voci in un sacco di perle argentate. Pensò fra sé che in quei lunghi anni d'assenza le sostitute avevano svolto un adeguato lavoro. Giunti sotto il grigio caseggiato, chiese al gatto dov'era la camerata. «Lì, la finestra alla sua sinistra, maestro!» «Resta qui, aspetta, e se puoi, concentrati nel massimo silenzio!» Volò sul davanzale e iniziò a picchiettare sul vetro. Prima una, poi due, tre volte. Quando Arturo sentì quel ticchettio, era già sveglio da 5 minuti. Aveva udito uno strano rumore provenire dal letto di Palmiro, come un gorgoglio d'acqua piovana discendere in una chiavica. Attratto dal picchiettare, brontolando andò verso i bagni. «Cosa mai vorrà Alfredo a quest'ora?» Aprì la finestra, non vide nessuno. Sporse il capo dal davanzale e guardò. «Strano», bisbigliò osservando la tremula luce dell'alba. Ritornò ciabattando al capezzale del compagno, quando lo stesso suono ripeté con maggiore insistenza. Acuì l'udito e percepì la provenienza dalla finestra proprio di fronte al letto di Palmiro. Aprì l'imposta. «Alfredo», disse. Il merlo entrò, planò sulla testiera del letto dove era coricato il ragazzo. Immediatamente Arturo sentì il suo corpo tramutarsi in un sasso. Non riusciva a muovere un solo muscolo. Lì, dirimpetto alla finestra, era ora spettatore di una indimenticabile scena. I soli occhi dettarono i movimenti dell'anima. Vide il merlo aprire le ali. Un accecante colore coprì il nero piumaggio invadendo l'intero letto e s'attenuò gradualmente in verde pastello, palpitante come la fiamma di una candela ravvivata dal soffio del vento. Una giovane splendida donna apparve, raccolta in un bozzolo di trasparente giada. Chinò il volto sul letto, avvicinò la bocca all'orecchio di Palmiro, sussurrando incomprensibili parole. Il ragazzo alzò la testa e rispose. Allontanando la coperta, si levò dal giaciglio prendendola per mano. Si allontanarono lungo la camerata senza voltarsi e prima di svanire oltre l'uscio si fusero per sempre in un unico colore. Dall'amico rimase un letto vuoto, le coperte a terra, il freddo pungente. Lentamente il corpo di Arturo riprese vita. Appena poté fare un passo, corse verso l'uscita. Trovò la porta aperta. Gli ultimi raggi della luna illuminavano il sentiero lastricato che conduceva oltre l'intrico di ramaglie trastullate dal gelido vento. L'alba nasceva ammantata di 1000 zirconi appesi ai rami, di tele argentate, di ragni che, simili a un proscenio, aprivano la strada di là della selva verso le risorgive in un indaco tracciato dal sole nascente. Bello, sai, molto bello. Questo è il capitolo, poi sì. Abbiamo un epilogo e una poesia. L'epilogo è: finalmente ho terminato questo lungo racconto. Da allora sono passati 10 frettolosi anni. Dopo il nonno Ebel, il gatto Casimiro, il giovane Palmiro, anche Alfredo, a distanza di 3 anni, ha intrapreso lo stesso percorso. Sono rimasto solo con il mio vino, la sigaretta ed il dipinto murale. L'aquila è ritornata nel Nord Canada dall'ormai lontano giorno della Galaverna, il 24 ottobre 1991. Ci vollero circa 6 mesi prima che mi decidessi di avvicinarmi alla risorgiva. Troppa credine aveva accumulato la mia anima per la prematura scomparsa dei miei unici amici. Ora è l'abituale cammino. Mi siedo sulla riva del fiume ed aspetto, sapendo d'essere comunque ripagato. Verso sera, dal fondo del fiume, accompagnato dalle bolle d'aria, sale un allegro canto e qualche miagolio confuso. Sono certo che mi stanno aspettando. Nota bene, a chiunque voglia assaporare questa meravigliosa esperienza do l'indirizzo. Aggiungo che le frequenze hanno la massima estensione e potenzialità nei giorni di plenilunio. Fiume Storga, terza risorgiva a sinistra. Bello. E poi abbiamo qui la poesia che è «Sarò per te Galaverna». Io vivo sulla riva del silenzio, dove l'unico rumore è il cristallino respiro, dove i fiori sono occhi che piangono rugiada. Io esisto negli attimi della sera che scende come tela di ragno a baciare l'umida pietra. Per te tesso ragnatele di molli pensieri, rincorrendo una luce che sfuma, per te rivivo nell'ultimo bagliore che penetra le fronde. Un saluto prima dell'incantesimo notturno, poi con un balzo raggiungerò le stelle, raccoglierò in un cesto la luce aspettando il mattino, porgerò la guancia alla luna, oltrepasserò i sogni, dipingerò i rami spogli, le disadorne siepi di incontenibile bellezza. Quindi attenderò il risveglio e abbraccerò il tuo stupore. Bella, l'ho letta io una volta, molto bella. Possiamo, sì, quindi, molto, ecco, molto bella, bellissima. Possiamo bella, passare bella. Quindi all'ultima canzone, l'ultima in, canzone programma, in programma che è Tipi Tipi Ti, che è molto allegra. Quando tu mi venivi a cercare ti aprivo la porta, mi dicevi se tu sei contenta ti porto in città. Ogni volta ti ho detto di sì e venivo a ballare con te. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi tipi tipi di dove vai? Tipi tipi tipi di cosa fai? Tipi tipi tipi di come mai? Sei innamorata di lui e c'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu, c'era scritto ti vuole bene, ma non era la verità. Tipi tipi tipi di dove vai? Tipi tipi tipi di con chi sei? Tipi tipi tipi di come mai? Lui questa sera non c'è. Come mai questa sera mai? Le notte con la gente che c'è, ma perché guardi me? Oramai l'hai capito anche tu che l'amore per me non c'è più, ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così. Tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi dove vai? Tipi tipi tipi di come mai sei innamorata di lui? Ed eccoci di nuovo in studio per proprio gli ultimi saluti, così è trascorso, peccato, così velocemente. Sì, molto velocemente. Un racconto che sarebbe piaciuto a Basaglia, io ritengo, non so cosa, un racconto così, sì, un arcano così poetico, eccetera, eccetera. Certo che sei molto poetico, eh. Comunque ti ringrazio. Ringraziamo Mauro, ringraziamo, naturalmente per la sua magia. E ti aspettiamo ancora perché sei veramente... Beh, io dico grande. Favoloso, ecco, basta, perché, ma lo dico... Ci sono tanti modi, insomma. Ecco. Grazie e grazie. Alla prossima volta. Grazie, grazie dell'invito e grazie a tutti. Ciao Mauro. Grazie. Ciao, ciao. Salute. Alla prossima. Anche noi salutiamo dandovi l'appuntamento a Dio piacendo alla prossima domenica. E come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.